Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ai giorni di Noè la malvagità degli uomini era grande sulla terra e per questa malvagità il Dio punì gli uomini che erano sulla faccia della terra, sterminandoli, salvando solo Noè con sua moglie, i suoi tre figli e le mogli dei suoi figli. Ora voglio parlarvi del diluvio che Dio mandò sul mondo degli empi, perché il diluvio universale ci ricorda che Dio è santo. Dio è un giusto giudice e non tiene il colpevole per innocente. Per cui, nei tempi, nei modi da lui stabiliti, il Dio poi fa trovare agli empi il salario della loro iniquità. Quindi, è bene sempre prestare attenzione al racconto genesiaco sul diluvio che Dio mandò sul mondo degli empi. Ora è scritto al capitolo 6, versetto 5 della Genesi: e l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì d'avere fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento d'averli fatti. Dunque, iddio vide. D'altronde, la scrittura dice: colui che ha formato l'occhio non vedrà egli? L'empio dice che il Dio non fa attenzione, non presta attenzione alla sua malvagità. Lo stolto dice che Dio non c'è, ma Dio c'è e vede. E vede la malvagità. La malvagità degli uomini, perché gli uomini sono malvagi. Non è vero quello che dicono molti, che in fin dei conti l'uomo è un essere buono, no, nella maniera più assoluta. La Sacra Scrittura ci descrive l'uomo senza Dio come un uomo malvagio, senza timore di Dio. Dunque Dio vide la malvagità degli uomini, che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Praticamente gli uomini ai giorni di Noè, perché di questi giorni stiamo parlando, non pensavano altro che a fare il male, come oggi. Rifletteteci, non è forse vero che gli uomini pensano a malfare, meditano sui loro letti durante la notte il male da fare allo spuntare del giorno e non sono mai sazi del male che essi compiono, prendono piacere nel fare il male. Questa è la realtà di oggi, come era a quel tempo. E dunque, davanti a quella grande malvagità degli uomini, davanti a tutti quei disegni, a tutti quei pensieri, a tutti quei disegni iniqui che gli uomini concepivano in loro, il Dio non rimase indifferente, ma appunto punì gli uomini. Anzi, la Sacra Scrittura dice che si pentì d'avere fatto sulla terra l'uomo. Se ne addolorò in cuor suo. Vedete, Dio s'addolora. Il Dio s'addolora quando vede che gli uomini, che comunque sia, sono pur sempre delle creature che il Dio, diciamo, delle creature fatte, create a immagine e somiglianza di Dio, e Dio si addolora in cuor suo, il Signore, nel vedere il male che le sue creature compiono. Il Signore non prende piacere nel vedere l'empio che compie il male. Il Signore si addolora in cuor suo, però vedete, si adira pure. Il Signore è un Dio che si adira e si adira ogni giorno, eh? Ricordatevelo questo perché è scritto nei Salmi. Ebbene, il Dio davanti a questa grande malvagità degli uomini disse: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento d'averli fatti. Quindi questa fu la sentenza di Dio contro la malvagità degli uomini. Cioè Dio sentenziò di sterminarli. Qui si parla proprio di sterminio. Il verbo proprio è questo, il verbo sterminare. E queste parole le ha proferite l'Iddio vivente e vero, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Io sterminerò. E difatti questo è quello che poi il Dio fece. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Noè era un uomo giusto, integro ai suoi tempi, un uomo che camminava con Dio. In mezzo a quella generazione storta e perversa, in mezzo a tutta quella corruzione che imperava sulla faccia della terra, considerate che la scrittura dice che la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza, ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. Così è scritto. Ebbene, in mezzo a tutta questa corruzione c'era questo uomo di nome Noè, che era un uomo giusto e integro, trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Grazia. Anche noi abbiamo trovato grazia agli occhi del Signore, davanti a Dio. Vi ricordate a proposito di questa espressione che fu usata da un angelo, precisamente l'angelo Gabriele, che fu mandato da Dio a Nazareth da Maria, da quella che allora era una vergine fidanzata a Giuseppe della casa di Davide, e quando l'angelo entrò da lei, le disse: ti saluto, favorita dalla grazia del Signore teco. E poi le disse anche: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Vedete? Così come Noè trovò grazia agli occhi del Signore, così anche Maria, poi migliaia di anni dopo, trovò grazia presso Dio. Infatti il Signore a Maria le diede la grazia di concepire e partorire Gesù, il figlio di Dio. Ebbene, questo ci ricorda che appunto il Dio fa grazia a chi vuole lui fare grazia. Non è l'uomo che decide di essere graziato, ma è Dio che appunto fa grazia a chi lui vuole fare grazia. Infatti è scritto: io farò grazia a chi vorrò far grazia. E Dio fece grazia a Noè. E dunque Dio disse a Noè che avrebbe sterminato gli uomini sulla faccia della terra, assieme agli uomini e agli animali, e gli comandò di fare un'arca per la salvezza di lui e della sua famiglia. Gli dette appunto delle istruzioni ben precise su come costruirla, le misure e poi come proprio doveva essere strutturata, perché in quell'arca dovevano appunto essere custoditi per scampare al diluvio non solo lui, sua moglie e i suoi tre figli e le mogli dei suoi figli, ma anche poi tutti gli animali che appunto il Signore poi gli avrebbe mandato. E Noè infatti fece così, la scrittura dice, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. E quindi costruì questa, diciamo, quest'arca. Infatti poi ritroviamo lo scrittore agli ebrei, citare Noè tra coloro che operarono per fede, e dice lo scrittore agli ebrei: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia, per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che sia mediante la fede. Notate dunque che per fede Noè costruì, preparò appunto quell'arca che il Signore gli comandò di costruire. Capite? Il Signore quindi lo avvertì, il Signore gli comandò di preparare un'arca, lui eseguì quell'ordine del Signore. Tutto ciò per fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ebbene, Noè aveva fede. Infatti non dubitò minimamente che quello che il Signore aveva detto, diciamo che avrebbe fatto, non dubitò lui magari pensando, ma chissà, forse. No, lui ebbe la certezza che il Signore avrebbe sterminato l'uomo, lo avrebbe sterminato assieme a tutti gli animali. E quindi, avendo questa certezza, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. E mediante appunto la sua fede, condannò il mondo, fu fatto erede della giustizia che sia mediante la fede. Quindi noi sappiamo che Noè fu uno di quegli uomini che sotto, diciamo, prima della venuta di Cristo fu giustificato per fede, perché noi sappiamo che il giusto vivrà per la sua fede. Quindi egli, per la sua fede, fu fatto erede della giustizia che sia mediante la fede. Quindi Noè, noi sappiamo, fu giustificato per fede e quindi per grazia. Per grazia, non per opere. La giustificazione, anche sotto l'Antico Testamento, era per grazia, mediante la fede. Infatti, vi ricordo che Abramo, la Scrittura dice, credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia, cioè ciò significa la sua fede. Dunque Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato e preparò appunto questa arca. Poi, 7 giorni prima che il Signore facesse piovere sulla terra, ecco che cosa leggiamo. E l'Eterno disse a Noè, leggo dal capitolo 7 della Genesi, entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, poiché t'ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione. D'ogni specie di animali puri, prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. E parimenti degli uccelli dei cieli, prendine 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, e sterminerò di sulla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Dunque, queste sono parole che Dio disse a Noè 7 giorni prima, prima che lui facesse piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Quindi il diluvio lo mandò Dio, non lo mandò madre natura. Sapete che purtroppo in mezzo alle chiese, oggigiorno, diciamo, vengono dette delle cose che appunto odorano di paganesimo, perché vengono usate espressioni che fanno parte del gergo dei pagani che non conoscono il Dio. Tante volte vi ho parlato del fatto che parlano di fortuna, sfortuna, molti, no? Ma ci sono quelli che parlano di madre natura. Madre natura ha mandato l'alluvione. Ma quale madre natura? Ma noi siamo cristiani, noi siamo figlioli di Dio, noi crediamo in Dio, nel creatore di tutte le cose. È Lui che fa piovere. E in questa circostanza fece piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Quindi, quando c'è la siccità, che peraltro è un castigo di Dio, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare Dio affinché faccia piovere. Perché è Lui che fa piovere, è Lui che apre il cielo e manda la pioggia, comandando alle nubi, che Lui carica d'umidità, comandando alle nubi i giri che devono fare, perché anche le nuvole, quando voi vedete le nuvole che girano, no? Ma quei giri che fanno, li fanno per ordine di Dio, per riversare l'acqua sulla terra. E talvolta l'acqua viene riversata come flagello, non come beneficio, ma come flagello. E lo vediamo. Lo vediamo in questi giorni, nei quali si parla molto qui in Europa, no? Di forti alluvioni che hanno colpito in particolare la Spagna. E ci sono coloro che parlano di madre natura. Ma quale madre natura? Noi quando alziamo gli occhi al cielo e vediamo le nuvole del cielo, noi sappiamo che quelle nuvole sono opera di Dio. E quando vediamo l'acqua scendere sulla terra, noi sappiamo che è Dio che comanda la pioggia di scendere sulla terra. Per cui noi ringraziamo Dio per la pioggia che il Signore manda. Ebbene, il Signore disse a Noè che avrebbe fatto piovere 40 giorni e 40 notti. È un tempo veramente considerevole, fratelli, 40 giorni e 40 notti, cioè in cui piove ininterrottamente, è terribile, è terribile. E così Noè fece tutto quello che l'Eterno gli aveva comandato. E considerate che Noè aveva 600 anni, quando il diluvio delle acque venne sulla terra. Quindi, Noè coi suoi figlioli, con la sua moglie, con le mogli dei suoi figlioli, entrò nell'arca, chiaramente per scampare al diluvio che di lì appunto a 7 giorni il Dio avrebbe mandato. Quindi degli animali puri e degli animali impuri poi vennero degli uccelli e di tutto quello che strisciava sulla terra, vennero delle coppie maschio e femmina a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Sì, perché anche qui vediamo la mano di Dio, vedete che il Signore nella sua grande misericordia mandò a Noè tutti questi animali affinché fossero conservati in vita, affinché poi si riproducessero, no? E popolassero poi la faccia della terra. E fu il Signore che gli mandò questi animali piccoli, grandi, e entrarono nell'arca, e al termine dei 7 giorni ecco quello che avvenne, che le acque del diluvio furono sulla terra. La scrittura dice anche il giorno, considerate, la scrittura appunto ispirata da Dio dice il giorno in cui ciò avvenne, l'anno seicentesimo della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cataratte del cielo s'aprirono e piovve sulla terra per 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafet, i figlioli di Noè, la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figlioli con loro entrarono nell'arca, essi e tutti gli animali secondo le loro specie. E tutto il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie, e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutto quel che porta ali. D'ogni carne in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca, venivano maschio e femmina. d'ogni carne, come Dio aveva comandato a Noè. Poi l'Eterno lo chiuse dentro l'arca. Quindi il Signore gli comandò a Noè di entrare dentro l'arca e poi chi lo chiuse dentro? Non fu Noè a chiudersi, fu Dio che lo chiuse dentro l'arca. Dopo che appunto lui entrò con tutti gli animali che il Dio gli mandò. Veramente il nostro Dio è grande, il Signore veramente, oltre che essere giusto, è anche misericordioso, perché comunque nella salvezza sperimentata da Noè e sette altri, vediamo la misericordia del Signore, perché il nostro Dio rimane sempre misericordioso, anche quando dà corso alla sua ira. Il Signore rimane sempre misericordioso e pietoso. E quindi il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. Fu universale il diluvio, eh? Non credete a coloro che vi dicono che fu un diluvio locale. No, ma sai, dicono, fu un diluvio che, diciamo, concernette solamente una parte della terra, fu locale, no, fu un diluvio universale, e questo è confermato dal fatto che tutte le montagne furono coperte d'acqua. Dice la scrittura: le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu levata in alto d'in sulla terra, e le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. E le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra, e tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti, e le montagne furono coperte, e perì ogni carne che si muoveva sulla terra. Uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili d'ogni sorta, striscianti sulla terra, e tutti gli uomini, tutto quello che era sulla terra asciutto ed aveva alito di vita nelle sue narici, morì. E tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, furono sterminati di sulla terra. Non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca, e le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Da notare questo, diciamo, verbo che viene ripetutamente usato, oh? Verbo sterminare. Voi sapete che ci sono quelli che ardiscono dire, nella loro follia, perché qui appunto dobbiamo parlare di follia, che Dio non ha ucciso gli uomini con il diluvio. Sono gli uomini che sono annegati nell'acqua. Ebbene sì, ci sono coloro che dai pulpiti arrivano a dire questa menzogna. È una menzogna, è qualcosa che va contro quello che dice la Sacra Scrittura. Come Dio non ha ucciso gli uomini con il diluvio? Ma qui il Signore ha parlato, io sterminerò. Poi il Signore proprio sterminò. La scrittura è chiara. Furono sterminati. E chi fu lo sterminatore? Chi fu lo sterminatore? Fu l'Iddio vivente e vero, dei quali appunto questi predicatori, falsi ministri di Cristo, non hanno alcun timore. E per, diciamo, piacere agli uomini, arrivano a dire menzogne di ogni genere contro l'Iddio vivente e vero. Cioè ci vorrebbero far credere che furono gli uomini che annegarono nell'acqua. Ma guarda, io non ci avevo mai pensato. E perché non ci avevo mai pensato? Perché queste cose folli io non le penso. Io traggo all'ubbidienza ogni pensiero a Cristo. Cioè, uno quando legge il libro della Genesi, in particolare il racconto del diluvio. Ma mi volete dire come si fa ad arrivare a dire che Dio non ha ucciso gli uomini con il diluvio? Mi volete dire come si fa? Ma chi può arrivare a questa conclusione? O qualcuno che si crea una storia del diluvio, diciamo, tutta sua, o uno che non legge assolutamente quello che è scritto, o altrimenti uno che ha letto quello che è scritto così chiaramente e adultera la parola di Dio, perché ci sono anche coloro che adulterano la parola di Dio, torcono le scritture a loro perdizione, e questi sono uomini scellerati. Sì, esistono pure gli scellerati, sono quelli che torcono le scritture a loro perdizione, e nelle comunità ce ne sono tanti. Quindi è una follia affermare che Dio non ha ucciso gli uomini con il diluvio. Cioè, dal racconto genesico proprio invece emerge questo in maniera chiara, forte, inequivocabile. Dio uccise gli uomini con il diluvio. Chi è che fece piovere? Chi è che fece piovere? Fece piovere Dio. Lui fu a mandare il diluvio sul mondo degli empi. E per quale ragione lo mandò? Per sterminare gli uomini sulla faccia della terra. Al bando le ciance, dunque, dei falsi ministri di Cristo. Di ciance dobbiamo parlare. Dobbiamo chiamare le ciance in questa maniera. Proprio ciance. Non sono cose vere. Sono ciance. D'altronde esistono i cianciatori. Non è che tutti quelli che parlano dal pulpito sono dei predicatori, sono dei ministri dell'Evangelo. Esistono anche i cianciatori, che si caratterizzano per le ciance, per i loro discorsi pomposi e vacui. Fanno di quei discorsi filosofici, infarciti di termini difficili a capire, ma sono discorsi vuoti, discorsi di sapienza umana che non edificano, che non portano alcuna edificazione e che non portano soprattutto a temere Dio. Perché è proprio quello che non vogliono costoro. Costoro non vogliono che le chiese temano Dio. Perché? Perché loro stessi non temono Dio. E quindi poi disprezzano quelli che temono Dio come noi. E quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, perché di cianciatori ce ne sono molti, e le ciance di costoro vanno veramente distrutte, vanno confutate. E dunque poi naturalmente le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni, la Sacra Scrittura, e poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. Allora Dio fece passare un vento sulla terra, le acque si calmarono, le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse, cessò la pioggia dal cielo, le acque andarono del continuo ritirandosi sulla terra, e alla fine di 150 giorni cominciarono a scemare. E dopo, quando appunto la terra fu asciutta, ecco che Dio parlò a Noè dicendo: esci dall'arca, tu e la tua moglie, i tuoi figlioli, le mogli dei tuoi figlioli con te. Fa uscire con te tutti gli animali che sono teco, ogni carne, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, perché abbondino sulla terra e figliano e moltiplicano sulla terra. E Noè uscì con i suoi figlioli, con la sua moglie e con le sui figlioli con la sua moglie e con le mogli dei suoi figlioli, tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Vedete dunque come il Signore comandò a Noè di entrare nell'arca, ma poi gli comandò a suo tempo di uscire dall'arca, dopo diversi mesi. Quindi il Signore mandò il diluvio sul mondo degli empi per sterminare gli uomini empi. Poi, naturalmente, quando, dopo che Noè uscì dall'arca, offrì degli olocausti sull'altare, E l'Eterno sentì un odor soave e l'Eterno disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto. Finché la terra durerà semente, raccolta, freddo e caldo, estate, inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Dunque, questa promessa è importante perché? Perché Dio ha promesso di non mandare un secondo diluvio universale. Non ci sarà un secondo diluvio universale per punire il mondo degli empi. È una promessa che Dio ha fatto, e quindi, come tutte le promesse che Dio ha fatto, egli la manterrà. Lo ha detto: non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto. Ma attenzione, questo non significa che Dio non colpirà gli uomini per la loro malvagità. No? Il Dio li colpirà, e come? Basta leggere il libro dell'Apocalisse per rendersi conto di quanti terribili giudizi si devono ancora abbattere sul mondo degli empi. E poi non ci dimentichiamo mai del giorno del giudizio, poi, in cui appunto gli empi compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere, gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Cioè, badate bene che il nostro Dio si riserva di punire gli empi nei tempi e nei modi da lui stabiliti. Non è che il Signore non sta punendo gli empi adesso, li sta punendo, e come? Con malattie gravi, con alluvioni, con terremoti, con fulmini, con carestie, siccità, mandandogli fiere contro, animali feroci. Il Signore è terribile, il Signore è tremendo, il Signore è un fuoco consumante. Quindi il fatto che Dio abbia promesso di non colpire più con un diluvio universale la faccia terra non significa che Dio non colpisce gli uomini a motivo della loro malvagità. Infatti lui è colui che castiga le nazioni. Le castiga. Perché le castiga il Signore? Ma perché Dio è santo. Dio è un giusto giudice. Avete mai sentito coloro che dicono: ah, se ci fosse un Dio interverrebbe. Ma il Dio interviene, solo che loro non scorgono la mano di Dio quando è levata. Il Dio punisce gli uomini, li sta punendo, però molti non si accorgono che Dio sta esercitando i suoi giudizi sulla terra, perché non credono che Dio castiga. E questa è una delle tante menzogne, appunto, che la massoneria è riuscita a far accettare a tante chiese, perché la massoneria rifiuta, appunto, per loro, per i massoni, inconcepibile un Dio che castiga, anzi un Dio che s'adira, è inconcepibile per i massoni. Quindi state molto attenti, perché questa dottrina che Dio non castiga nessuno è una falsa dottrina. Dio castiga, e come se castiga, ma noi vediamo i suoi castighi. E noi li vediamo i suoi castighi, ma Dio esercita i suoi giudizi sulla terra esattamente come faceva ancora prima della venuta di Gesù, perché egli non cambia. Molti invece presentano un Dio cambiato. Sappiate che chi vi presenta un Dio cambiato, un Dio che non castiga, quindi, vi sta presentando un falso Dio. Un Dio che si è fatto, ci sono questi qua, questi predicatori, si sono fatti un Dio a loro propria immagine e somiglianza, per ingannare le anime, perché sono dei seduttori di mente. Quindi, la storia del diluvio è una storia che io ritengo i santi debbano leggere e meditare spesso, perché in mezzo a questa generazione storta e perversa, che ama sentir parlare di un Dio buono che alla fine salverà tutti, perché poi questa è l'idea dominante, no? Quella di un Dio che alla fine, nella sua bontà, salverà tutti. No, nella maniera più assoluta. Bisogna stare molto attenti, fratelli del Signore. Viviamo veramente in mezzo a una generazione storta e perversa che odia il solo vero Dio, eh? E che ama sentirsi dire che alla fine Dio salverà tutti. E questo, badate bene, lo dicono anche tanti evangelici. E se non lo dicono apertamente ve lo fanno capire. Ma Dio è buono, fratello. Lo so che Dio è buono, ma Dio è anche giusto. La scrittura dice chi non avrà creduto sarà condannato. La scrittura non dice che chi non avrà creduto sarà salvato lo stesso. Gesù l'ha detto. Chi non avrà creduto sarà condannato. Si parla di condanna. Lo ripeto, si parla di condanna. La condanna non è una giustificazione, eh? La condanna non è salvezza, la condanna è condanna. Infatti, chi non avrà creduto, che fine farà? Che fine farà? Dove mena la via degli increduli? Mena in perdizione. Se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati, Gesù disse ai giudei. Chi rifiuta di credere nella buona novella che è Gesù di Nazareth è il Cristo, morirà nei suoi peccati e quindi sarà condannato. Va in perdizione, ossia va all'inferno. Chi rifiuta di credere che Gesù è il Cristo, non è che viene salvato lo stesso. Ogni volta che muore qualcuno, si sente sempre dire, era una persona brava, eh? Ce ne fossero come lui. O adesso ci sarà un altro angelo in cielo, da lassù ci guiderà, da lassù qui, da lassù là. Ma possibile che non muore mai un malvagio, io dico? Ma possibile mai che non si sente mai dire, ma quello era veramente un uomo malvagio? No, tutti buoni sono. Quando muoiono, tutti buoni sono. Sembra che sulla faccia della terra, quando muore qualcuno, non c'è mai un malvagio che muore. E invece la maggior parte di quelli che muoiono sono dei malvagi, sono degli empi, che meritano di andare all'inferno, meritano la condanna che subiscono, perché sono degli empi. Il Dio non è ingiusto. Dio è giusto. Se dice che chi non avrà creduto sarà condannato, questa è una manifestazione della sua giustizia. Ma perché chi rifiuta di credere che Gesù il Cristo dovrebbe essere salvato lo stesso? Ma c'è una ragione. No, non ce n'è nemmeno una. Perché, sapete, chi rifiuta di credere che Gesù è il Cristo fa Dio bugiardo. Fa Dio bugiardo. E quindi? Chi fa Dio bugiardo, voi pensate che debba andare in cielo? Eh? No, chi fa Dio bugiardo va all'inferno, giustamente va all'inferno. Quindi non vi fate ingannare da questa idea che alla fine il Signore salverà tutti, è così buono il Signore. Guardate, l'eresia universalistica esiste, eh? Non è che io vi sto parlando di un'eresia che non esiste o che esisteva nel passato, adesso non esiste più. No, no. Gli universalisti, cioè quelli che sostengono che alla fine Dio salverà tutti, ci sono. Addirittura ci sono quelli che sostengono che anche il diavolo e i suoi angeli saranno salvati. E perché? Perché Dio è buono. Ma vuoi che non salva il diavolo? Lui che c'ha tanto bisogno di essere salvato. Ma vuoi che non salva i suoi angeli? Ma come? Anche loro hanno bisogno di essere salvati. Dio amore, ti dicono. Sì, ma Dio li ha destinati al fuoco eterno. Il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. La scrittura ci dice dove saranno gettati il diavolo e i suoi angeli. Nel fuoco eterno, là saranno tormentati nei secoli e secoli. Vedete quanto diventano veramente misericordiosi taluni? Naturalmente misericordiosi, tra virgolette. Praticamente hanno creato la salvezza pure del diavolo e dei suoi angeli. Vedete questa idea che Dio è buono, che Dio non castiga nessuno. Poi, cioè Dio è buono, ma non è vero che non castiga nessuno. Questa idea, no? Che Dio non castiga nessuno, che si è fatta veramente strada in molte chiese, poi può portare anche a dire che il Signore salverà pure il diavolo e i suoi angeli. E quindi ci sono taluni che si dicono cristiani che dicono e preghiamo per il diavolo, per questo povero diavolo, peraltro lo chiamano pure povero diavolo, ma perché devono chiamarlo povero diavolo? La scrittura lo definisce diavolo, non va chiamato povero diavolo, va chiamato diavolo. Diavolo viene da diabolos, che significa calunniatore, accusatore. Lui non è un povero calunniatore, eh? Lui è il calunniatore, così bisogna chiamarlo. Capite? E dunque state molto attenti, perché addirittura ci sono quelli che si dicono cristiani e pregano per la salvezza del diavolo e dei suoi angeli. Ma che cristiani sono questi? Ma dove leggono mai nella Sacra Scrittura che noi siamo chiamati a pregare per il diavolo e i suoi angeli finché Dio li salvi? Ma non c'è salvezza. Ma non c'è salvezza per il diavolo e i suoi angeli. Saranno gettati nel fuoco eterno, così è scritto, così noi crediamo e così avverrà. Non è che, diciamo, abbiamo qualche dubbio, come non abbiamo alcun dubbio, appunto, sul, diciamo, la sorte che aspetta gli increduli. Vi ho detto prima, Gesù ha detto, ma chi non avrà creduto sarà condannato. C'è la condanna, è certa. L'ha stabilita Dio la condanna per gli increduli, non è che l'ho stabilita io. E poi voglio dire, io non prendo piacere nella morte dell'empio, io non prendo piacere, diciamo, nella morte di coloro che vanno all'inferno perché non hanno creduto, assolutamente. Ma infatti io scongiuro gli uomini a ravvedersi, a credere nell'Evangelo proprio affinché siano salvati. Il mio desiderio, la mia preghiera per coloro che sono sotto il peccato e che siano salvati, che siano strappati al fuoco dove sono diretti, ma nessun piacere nel vedere che gli empi vanno all'inferno, come nessun piacere, nessuna gioia quando gli empi vengono, gli uomini vengono castigati da Dio per la loro malvagità. Però dobbiamo prendere atto dei castighi di Dio, non è che possiamo fare finta di niente, non è che possiamo voltarci dall'altra parte, come se nulla stesse accadendo. No, il Signore sta castigando le nazioni, ma peraltro Dio castiga le nazioni oramai da tantissimo tempo, non è che le sta castigando solo adesso. Quindi vedete, fratelli, il diluvio sul mondo degli empi ci serva di monito affinché siamo spinti a temere il Signore, a tremare nel suo cospetto, a fuggire il male, perché il male bisogna fuggirlo. Molti lo abbracciano, no, il male bisogna fuggirlo, bisogna abborrirlo. Vedete che cosa avvenne ai giorni di Noè? La malvagità degli uomini era grande sulla terra, perché gli uomini amavano il male. Amavano il male. E Dio li castigò, perché appunto il Dio è un giusto giudice. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti, presentandovi un Dio che non castiga gli uomini, perché il nostro Dio, che è il solo vero Dio, castiga le nazioni. Le castigò ai giorni di Noè con quel diluvio, ma le castiga ancora oggi, diciamo con diluvi, cioè con alluvioni locali, come vi ho detto, siccità e così via. Il Dio non è cambiato, fratelli nel Signore, il nostro Dio non muta. Quindi guardatevi da quelli che vi presentano un Dio che è cambiato. No, ma quello è l'Iddio dell'Antico Testamento. Ma cosa dici? L'Iddio dell'Antico Testamento. Ma perché? L'Iddio dell'Antico Testamento è diverso da quello del Nuovo Testamento. A me non risulta. E non solo a me, ma anche a tutti coloro che conoscono le scritture. Non risulta che l'Iddio del Nuovo Testamento sia un Dio diverso da quello dell'Antico, nella maniera più assoluta. Basta leggere il libro dell'Apocalisse. Leggete il libro dell'Apocalisse, peraltro beati sono coloro che leggono quel libro e vi renderete conto come l'Iddio del Nuovo Testamento non sia minimamente diverso da quello dell'Antico Testamento. Il suo modo d'agire rimane sempre lo stesso. Ecco perché noi lo temiamo, e non diamo ascolto a tutti questi cianciatori che presentano un Dio diverso. D'altronde, ricordatevi sempre questo, che il diavolo falsifica ciò che è vero. Infatti, il diavolo fa presentare un Dio diverso, un Gesù diverso, un Vangelo diverso, uno spirito diverso. Il diavolo è esperto nel produrre falsità. Ricordatevi che è il seduttore di tutto il mondo, di tutto il mondo. Quindi dobbiamo vigilare per non cadere vittima delle sue macchinazioni. Perché lui va attorno, a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare. E noi lo vediamo che lui va attorno a guisa di leone ruggente. Quando si presentano questi predicatori, che sono dei cianciatori, noi sentiamo proprio la voce del diavolo, che ci vorrebbe fare accettare, appunto, menzogne di ogni genere. Quindi state saldi nella verità che è in Cristo Gesù e non vi lasciate ingannare da coloro che presentano un Dio diverso da quello che colpì il mondo degli empi ai giorni di Noè. Dio non muta, la sua santità non muta, la sua giustizia non muta. E quindi non vi fate sedurre, perché sono sorti molti seduttori, ma veramente molti, fratelli del Signore, molti seduttori. Quindi, siccome che la scrittura ci esorta del continuo a vegliare, io vi dico, vegliate. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.